storie italiane. Migliori amici per sempre. Molto tempo fa, in un felice paesino, vivevano Ugo ed Elsie, che stavano sempre insieme e non si dividevano mai. Guarda, Elsie, un re degli elfi! Non sembra forte? Potrei essere il re degli elfi. Vedi le mie orecchie a punta? Bene, allora io potrei essere questa strega. Erano davvero migliori amici e nessuno li avrebbe mai potuti separare. Ma a differenza di loro due, nel cuore del bosco, viveva un giovane gnomo di nome Cobby che non aveva nemmeno un amico con cui giocare. Babba, andiamo fuori oggi a vedere le fate delle bacche? Oh, Cobby, non vedi che sono impegnata a pulire? Non posso uscire con te adesso. Allora, se magari andassi da solo? Tesoro, ti ho parlato dei cattivi affamati troll che vagano per questa foresta. E escono principalmente quando è... notte, lo so, ma starò molto attento. Mi dispiace, Cobby, ma tu rimani dentro. Perché non giochi con uno dei tuoi giocattoli? Sì, mamma. Più tardi, Cobby andò a trovare sua madre. Mamma, il pranzo è pronto? Oh, la mamma dorme. Questa è la mia occasione, devo uscire adesso. Cobby sgattaiolò silenziosamente fuori da casa sua e corse via. Vagando, raggiunse presto il villaggio. Wow, così tante persone! Non sono mai stato nel villaggio umano prima d'ora! Eh? Cobby vide Ugo ed Elsie che giocavano felici insieme. Bambini? Sarebbe bello se potessi fare amicizia con loro, ma come? Ugo, vai a nasconderti e io conto fino a 10. Non mi troverai! Mentre Elsie chiudeva gli occhi, Cobby capì che era il suo momento e si mosse silenziosamente verso di lei. Oh! Cobby fece un incantesimo per ipnotizzarla, così che lo seguisse senza problemi. Dopo un po', Ugo si stancò di aspettare e uscì dal nascondiglio. Elsie? Strano! Sarà andata a casa? Elsie era con Cobby, che l'aveva portata in un altro posto. E ora l'incantesimo, dato che Cobby era ancora un giovane elfo con una debole magia, svanì. Oh, dove sono? E tu chi sei? Mi chiamo Cobby e vorrei che tu giocassi con me. Cosa? Ma non ti conosco. Non voglio giocare. Portami a casa. No, ti ho vista giocare con quel ragazzo, quindi puoi giocare anche con me. Dai, non essere così scontrosa, giochiamo! Cobby mostrò a Elsie le farfalle svolazzanti, le offrì deliziosi cioccolatini e fece persino facce buffe per farla ridere. Ma Elsie era spaventata ed infelice. Non sapeva che Cobby voleva solo giocare. Pensava che fosse solo un gnomo cattivo che l'aveva rapita. È inutile! Ho provato di tutto! Non ridi nemmeno un po'. Voglio solo andare a casa. Immagino di aver fatto una cosa cattiva. Vedi, non ho alcun amico e volevo solo qualcuno con cui giocare. Sono davvero dispiaciuto. Sentendo questo, Elsie pensò tra sé. Non sembra essere così cattivo, ma non posso fidarmi di lui. Forse se gioco con lui mi riporterà a casa. D'accordo, giocherò con te, ma dovrai portarmi a casa dopo. Cobby era felicissimo. Promise di portarla a casa e giocarono allegramente insieme. Nel frattempo, a casa, Ugo aveva detto a tutti che Elsie era scomparsa. E ora tutti la stavano cercando. Elsie! Elsie, dove sei? Tutti erano molto preoccupati. Cercarono per ore, fino a che divenne buio. Alla fine, tornarono tutti a casa molto tristi. i genitori di Elsie dissero che forse i gitani l'avevano portata con loro, ma Hugo pensava che forse una delle creature magiche l'avesse presa. Tornando al campo dei fiori, Elsie alzò gli occhi al cielo. Kobe, devi portarmi a casa ora, è quasi buio. Buio? Ma la tua casa è... Oh, molto lontana, i troll escono di notte. Kobe iniziò a piangere amaramente. Va tutto bene, cercheremo la strada domani. Per ora troviamo un posto dove dormire. I troll sono enormi e non riusciranno a trovarci se ci nascondiamo bene. Così camminarono per un po' di tempo e alla fine trovarono un albero cavo. Entrarono lì dentro e si rannicchiarono per dormire. Al villaggio, invece, Hugo non riusciva a dormire. Pensava disperatamente a Elsie. La devo trovare! Tutti dormono! Andrò adesso! Sgattaiolò fuori nella notte e andò a cercare la sua migliore amica. La mattina dopo, quando Elsie e Kobe si svegliarono, lei gli chiese di portarla a casa. Casa? Perché non giochiamo ancora un pochino? Conosco un posto che ti piacerà sicuramente! Ma Kobe, devo andare a casa! Non ti piace giocare con me, vero? No, no, non è questo! Adoro giocare con te! Va bene, andiamo in questo nuovo posto! Nel frattempo, Hugo aveva raggiunto il campo dei fiori. Quello non è il fiocco di Elsie? Forse... no, devo pensare positivo. Deve essere caduta goffamente e poi si è incastrata tra i cespugli. Ah, devo trovarla. Continuò sperando per il meglio. Kobe intanto stava portando Elsie attraverso un lungo bosco oscuro. Kobe, dove... dove mi porti? È proprio qui. Chiudi gli occhi. Tenendole la mano, Kobe tirò Elsie attraverso alcuni folti cespugli. Adesso aprili! Wow! Girasoli! Sì, Kobe aveva portato Elsie in un enorme campo di girasoli. C'erano bellissimi girasoli fino a dove poteva vedere. E così i due furono molto felici. Nel frattempo, il povero Hugo aveva raggiunto l'albero cavo. Oh, questo è di nuovo il fiocco di Elsie! Oh no! E se una fata cattiva l'avesse davvero rapita? O un folletto l'avesse ingannata? Iniziò a cercarla ancora più di fretta. Elsie e Kobe stavano giocando felicemente, ma presto arrivò la sera. Kobe, devo andare a casa adesso! Adesso? Perché? Non possiamo giocare ancora un po'? Guarda, quando arriva la notte escono i troll. E tu non vuoi questo, vero? Ok. Torniamo nei boschi e troviamo un altro albero in cui dormire. Elsie acconsentì, sperando di riuscire a convincerlo a riportarla il giorno successivo. Ma quando si voltarono per andare, i girasoli improvvisamente iniziarono a frusciare. Oh, che cos'è? Forse un topo? È un troll! Non aver paura, sto solo guardando in giro. Ehi, sembra che voi due vi stiate divertendo. Vi spiace se venisco? Oh, il mio nome è Jamie. Aspetta! Vuoi giocare con noi? Ma non dovresti essere cattivo? Ovviamente no! So che tutti si spaventano perché sono un... troll, ma davvero voglio solo degli amici! Oh, è proprio come te, Kobe! Bene, immagino che tu possa giocare con noi! Veramente? Sì! E così tutti e tre iniziarono a giocare insieme. Hugo ora aveva raggiunto il bosco scuro e si chiedeva dove potesse essere Elsie. Spero di trovarla presto. E se fosse ferita? E se... No! Elsie! Si precipitò attraverso i folti cespugli e trovò Elsie lì in piedi, infastidita. Ho perso! Non è giusto! Povera Elsie! Puoi sempre riprovare! Elsie? Che cosa siete? Chi sono loro? Oh. Ugo! Sei venuto a cercarmi! Mi sei mancato così tanto! Questi sono i nostri nuovi amici, Kobe e Jamie! Sono davvero carini! Ugo rimase completamente scioccato nel vederla giocare con un troll e uno gnomo. E vedendo Elsie così felice di vedere di nuovo Ugo, Kobe si vergognò terribilmente di se stesso. Elsie, mi dispiace davvero di averti portata via dai tuoi amici e dalla tua famiglia. Oh, va tutto bene, Kobe. Alla fine è andato tutto bene, vero? Beh, non proprio. Dobbiamo ancora andare a casa, sai? E siamo molto lontani. Oh, aspettate. Forse questo aiuterà. È un cappello magico. Quando scuoto il campanello esprimo un desiderio, diventa realtà. In questo modo possiamo andare tutti a casa. Ma dato che hai questo cappello, perché non hai mai desiderato di avere qualcuno con cui giocare? Perché non è un modo per farsi dei veri amici, vero? Comunque, campanellino, vorrei andare a casa di Elsie e Ugo con loro e Kobe. Il campanello suonò e presto furono tutti in piedi nel giardino di Ugo. Siamo a casa! Oh, ma i nostri genitori e tutti gli altri si devono essere preoccupati così tanto! Lo sono! Jamie, potresti per favore desiderare che tutti dimentichino che Elsie è scomparsa? Così Jamie espresse il desiderio e suonò il campanello e rimosse i ricordi di tutti quanti nel villaggio. Potrei volerlo fare anche a mia madre? Si diedero la buonanotte e si separarono. Da quel momento in poi, loro quattro giocarono quasi ogni giorno insieme e presto divennero migliori amici, dimostrando che l'amicizia non conosce limiti. Non importa quanto una persona sia diversa, la vera amicizia trova sempre un modo.